Beatone. Ehi, io sogno, dimmi. Dammi un rapportino, fa la cortesia, sto provando questo Tanner, come va? 9 più 20, sì, radio 5. Ma la radio buona. Ehi, è buona la radio, voglia. E posso aumentarla ancora, ma se vuoi bene così la lascio così. Esci bene, a voi, a caspita. Se la vuoi più 20, ma l'altro del 5 è appesicata. Va bene, fermi un attimo, Antone. Eia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E beh, stai così. Avrei sentito segnale 9, invece mi arrivava 5. Da lì sentivo tempio eccetera eccetera, era molto più aperto. Qua c'ho questi palazzoni che mi hanno piazzato e quindi apertura non è che abbia molta, capito? E vabbè, esaui ti dica. Già è buona la zona, meglio della mia, Vabbè, tu sei al monte, sei aperto lì. La zona del discorso Portamola la prendi in pieno, quindi dovresti sentirla anche tu Lula, senz'altro, capito? Beh, io non lo so, non ho mai sentito quelli lì. Ieri notte ci ho parlato con quello cuginetto, eravamo in mando laterale, eravamo e mi arrivava bene, perfetto arrivava. Gappa gappa, andava. Usando il coso, il tornello, il tornado, la Fayette Typhoon. Typhoon, non un Typhoon. Il Typhoon della Fayette. Stai scendo benissimo, stai scendo. A voglia. Sì, già va bene, già. Io lo credo che va bene. Caspita. Una buona radio. C'è lo stesso circuito del Superstar. Sì, lo so, è uguale identico al 2009. Già l'ho visto, già. Capito? L'ho visto. È preciso, eh. Una mascherina, tutto uguale. La mascherina è nera, già lo so. Adesso attacco il microfono amplificato, vediamo se esce questo microfono amplificato, aspetta un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, già sta uscendo, a voglia. Gappa. Adesso si è amplificato, ma già il televisore si intende. Giù. E così, Antone. dimmi tutto. Detto che comunque va bene la radio, la posso aumentare, guardami. Ora, ora. Va benissimo, è una bomba, lo sto dicendo. Sì, sì, forte. E io so pure. E questo è una 10 watt, mi pare, non lo so, non ho provato col watt però. E adesso provo il magno, aspetta un attimo. Questo è diverso, questo pompa di più. Ah? Che questo pompa di più, ho detto. Quanto è il segnale con questo? Questo sì, 9 più 20, tondo, tondo. Sì, guardi, allora tra una 20, vabbè, 10 di guadagno, non è che sia molto, va. Sì, già va bene, c'è la voglia. E cosa vuoi, siamo città, quindi, che ci dobbiamo accontentare? No, ce l'avevo a fermo, la stavo provando, la stavo andando, tutto lì. Vabbè, sta andando bene, aspetta, ti sento di lusso. Gappa gappa, e vabbè, andavo pure visto, quindi, non c'è problema. Questo sto uscendo col suo microfono, è originale. Va bene, ha una bella uscita. Ha una bella uscita proprio. E Antonio, bisogna accenderlo ogni tanto, so se non vinano. E non dirà a me, il mio è rimasto anche quasi un mese che non lo stavo usando e poi tutto un tratto mi sono accorto questo cazzo di effetto di merda e era al vento, allora, capito? Non partiva e quindi scaldava, adesso invece fa una bella rieta, fa quando si sente proprio l'aria che esce fuori, quindi la ventola sta funzionando adesso. E con questo quanto è il segnale? 7,20 caro, questo è come il mio, no? Sì, meraviglia, come il tuo, vabbè, questo qua sta uscendo con un po' di watt adesso. Quello è un demonio, sta uscendo bene, veramente bene, di lusso. Anche questo era spento lo stesso e l'ho acceso a provare ogni tanto. E vogliono sempre accesi, se lasci spenti, capito? Ti crea problemi, ti crea oltre di quegli effetti strani. Per carità. Questo già va bene, funziona bene, poi il 2009 ce l'ho fatto in cucina momentaneamente, adesso questa nuova antenna di mattina. Vediamo un po' se mi riesce a farla, fagli avere stazionario 1 e 1. Il 3009 è una bella radio lo stesso, ma non è il modello che hanno fatto, il vecchio. Già lo so che il vecchio è il migliore che c'è, ce l'ho il vecchio io, ce l'ho qua buttato a casa, il 3009 è originale, c'aveva più di 20 anni, c'aveva. Sì, ma funzionano sempre bene. Sì, quello sì. No, io ho solo problemi appena appena con quel 2009 di ricezione in FM. Capito? E basta, bisogna che lo porto sotto oscilloscopio e lo faccio regolare. E non so neanche quale delle cose, se no l'avrei regolato io. In posizione però c'è bene, è ricezione che c'ha solo questo problema di cazzo. Poi con il 4000 è perfetto, quello è un demonio, capito, ce l'ho in cucina, con la macchina del 2009 gli ho messo quella, gli ho messo. No, conosco il 4000, qual è? È quello prima del celeste in pratica, solo che io gli ho cambiato la mascherina, gli ho tolto la mascherina, quella lì originale che era stato lì, no? E io ci ho messo la mascherina del 2009, è bello da vedere. C'è l'eco suo, e con il 4000 è perfetto. Esce una bomba, esce. E quella lo vedi? No, non lo vendo quello, no. Anzi, l'altro giorno mi stavo per comprarmi un coso, un effetti 101, 125 euro. Poi dovevo comprarmi mi sono andato lì da Deville. Io ho richiesto un pezzo, adesso speriamo che mi dia l'ok, se riesce a trovarlo, così almeno esco con quello scooter, cazzo, che c'ho la tastiera tutta ossidata sotto, è un casino, non ma con il disallattore dice a disallattare quella sera lì, dopo il trampato tutta la serata lo staglio e non vuole mischia, io proprio lo sino dello staglio, ma con il disallattore ce la fai a toglierlo, e quindi me la sono tirato la cosa nuova e così sono più tranquillo. Vabbè, ma cos'è, antenna di macchina? No, lo scooter, ho detto, non ho delle macchine. Ah, lo scooter, Lo scooter per anziani, quello è abbastanza largo, diciamo, l'ho preso per farmi la spesa, mi più che altro, per non farmela fisica, ogni volta mi scendono le braccia, me ne scendono, facendo via caro felice con le buste in mano. Ma infatti, è un casino, almeno ti aiuta a quello. Poi entrare è un casino lo stesso, perché se sali con le buste, capito, quello come tu sei salito, poi chiude le portiere, mette in moto, se non stai attento cesci, e ha sparato nella parte in fondo insieme alle buste. E invece il pezzo di superstar non ne hai nulla, no? No, pezzo di superstar non ne ho. Nulla. Io devo buscare un superstar, però anche se vecchio devo fare una modifica. Sì, se non è superstar sarà qualche altro, magari uguale, identica a quello. Già ci sono in giro, già costavano diceva 120 euro, 100 euro, li ho visti. E mi azzeccare proprio il tipo che non gliene frega niente del prezzo, capito? Lo paga anche 90 euro, ma l'ha pagato 90 euro, è superato 3.900, il modello vecchio. Il modello vecchio è il migliore. Tu fai le modifiche che vuoi con quello, figurati tu. Infatti, che se quelli io ho visto quelli nuovi dentro, fanno schifo i circuiti, per carità. Il circuito che c'è dentro mi ha detto Marco che è uguale identico a cosa, quelli che stanno facendo adesso, capito? E montano a posto di montare il transistor finale, quello a piedini, a pettine, montano quelle dello stereo che usavi una volta del clavio, quello che ha 5 piedini in pratica, il TDA 2003. Non si vede nulla, per carità. Mondezza. È un casino a ripararlo quando parte il finale dell'audio, cazzo, un casino proprio a ripararlo, perché lo stampato rimane doppio e deve stare molto attento come dissaldi il pezzo, capito? E c'ha le bandelle fine fine, come le scaldi quelle lì, si sciogliene. Oh, il saldo qua! Manuele! Fra, tutto a posto! Ciao Antonè! Ciao Manuele, ben sentito! Perussi! Davvero, ma però... ma pure tu mi ascolti, sì? Sì, certo, adesso ti ammazzo la macchina di vengo. Cazzo, sei 9.30. Vabbè, sto uscendo con pochi watt, 5 watt. E poi nella tua zona, la mia, si vede, davanti. È una bella zona, la mia. Sto utilizzando sempre quella Game Master che c'è su. E se bene, non ce n'è più quella che avevamo piazzato. Pure, c'è tutta piena leva, Sant'Enna, ogni avidone, Sant'Enna, c'è tutta pratica. Quella l'ho smontata, mi è rimasta in mano, ha giù fatto a pizza, c'è giù tutta la mondezza. Seria. Cazzo, c'è un po' il capodolino di Sant'Enna. Ma lui si sta durando. E come mai? Cazzo, pure c'è bene con quella Tonino. Ma anche io ci va bene, solo che mi sta dando problemi. Poi c'è uscito uno stilo dalla Sabati, col vento, non l'ho pensato bene quando non so. Allora sono salito su e visto che ero lì, mi ha giocato in terra, ha detto ma più vista si è giubiata la vista. Ah, c'è bene, cazzo a voglia. Vabbè. Però l'altra mi sa che c'era più ricezione, questa è più silenziosa. Meglio che sia un po' più silenziosa. Vediamo un bel di guerra, che a carità. Non solo guerra, ma le macchine che passano al buro. Appunto, mica c'è Antonello, qua è Antonello. Ehi, già sono qua, già sono qua, già. Io mi sono, sono rimesso la mano qua, perché avevo uscito il capo del PL, dal PL, prima la bobina, ragazzi. Mi è toccato rifare tutto nuovo e adesso gli ha aggiunto i radiali che mancavano ed è perfetta. Esce una bomba, esce stazionaria 1-1 e pompa un bel pure. Ma adesso quale antenna c'è? La mantova 5? No, no, la mantova turbo sto usando. Va bene, 9-10 sì qua. Ragazzi, lo vedi. Ma io non ritengo, ma baci però, non è QRM forte, dai, già va bene. È il russo, va bene così. Segnale su quasi 7 stava arrivando qui. Quindi c'è un periodo di ricezione, cioè. Quando sento la zona dell'Ucraina, della Russia, una telefonata, quando mi faccio una Coca-Cola mi rispondono immediatamente, sembra di parlare al telefono. No, io quelli non li sento. Vado bene qua, qualche giorno te li faccio sentire quando passi qua a casa, così intendi la propaganda di tutta la Russia, la Georgia, tutti li intendono. C'è l'apertura di Senori che è capito. Arrivano tutti da lì, arrivano. Perché se sono aperta tu. Vai Emanuele. Ma mi ascolta quel porco fottuto di Antonello. Ti ascolto io già, e tu mi ascolti, porco fottuto. Sì, a voi, io pensavo che non mi intendi, vabbè che faccio l'antenna imboscata, io sono stato detto. Come mai l'hai imboscata? Non sai che te la portino via? Io non so più tempo, se avevo avuto il tempo me l'avevo messa su, ma non c'è più tempo, a parte non c'ho tempo. Ah, vabbè, quello che è vero. Ma quello di orari che fai tu lì, già lo credo, non c'è tempo di nulla. Guardate quel lavoro che non è che sia stato bello, no? Purtroppo non è come essere al supermercato che ti fai tutto il tuo e è finito. Magari lì sì, è la meglio al supermercato. Adesso sono qua, cazzo ne ho, per carità, nelle campagne, cazzo mi bastano i romeni, di zingari, di tutti i carità mi bastano i se sei in campagna lì mi... Cioè, almeno un po' di cose ti fai, cazzo, di lumache. Io cazzo lumache, io non ho tempo per lumache, cazzo, con tutti i gambi che entrano a segnare, chi entra, chi esce, numeri di targa, il cazzo di appena il valumacche faccio. Ah, quindi ogni volta devi stare cazzo segnati i numeri di targa, cosa lì dai? E le devi segnare nel registro. Nel registro di segni, oggi ne sono entrate roba di una quarantina di persone. E giura, dopo tante fra, ma c'è lavoro, ha segnato tutte le tante, nulla. Per carità. Il lavoro è quello lì, cosa devi fare? Cazzo di che a casa? Se che a casa non vai nulla. A che cosa vai? Non mi sento, cazzo bisogno, 2.000 euro quasi. Magari, cazzo 2.000 euro qua, magari cazzo 2.000 euro. 40 euro a servizio. Cazzo una cazzata brutti voi. Sono sottopagati, hanno fatto, si sono ribellati tutti quanti, è impossibile da fare questo servizio qua per 5 euro all'ora. Se non si ribella non vada bene nessuno. Vabbè, 5 euro ora è poco proprio, era bambi proprio. Così è, una massa di bastardi. È una massa di bastardi, insomma, non so quanti anni sono in coso per farli aumentare questi qua, vigilanti, poterato, anche quelli delle pulizie, anzi, che se devi pulirsi mi dare bene nulla. Ma c'è la macchina di servizio? Ma se vai al posto di lavoro ti fermi lì, se nell'ufficio stai e basta, vai al posto di lavoro, la macchina non la usano. Ma e tu la guardia, roba la stai facendo adesso? La guardia la fai lì a Tronco Reale, c'è l'ufficio, ti parcheggi e stai lì, c'è la scrivania, quando entrano, quando escono devi firmare nella giornaliera. Ah. tipo fumassato, va? Sì, bravo, esatto, tipo fumassato, esatto. Ma io mi sembra piccato, no? E dove? Ah, trucco reale, giusto. Trucco reale, non è caso che ho fumassato io. L'anno scorso eravamo a fumassato. Ah, trucco reale fai, ho capito, sì, sì. E che ora rifai, Manuè? Allora, stamattina ho fatto dalle 5:30 a 2:30. Poi fai il turno dalle 2:30 fino a 10:30. Poi fai il terzo turno, 10:30 a 6:30. 10:30 di notte, 6:30 mattino. 6:30 di mattina, sì, esatto. Yes. Cioè la domenica? La domenica lo stesso, 5:30, ti rompe un'anima che non vede nessuno. 2:30, la stessa cosa, poi viceversa, 2:30, 2:30, 10:30, poi 10:30, 6:30, la stessa cosa. Cioè praticamente non riposi, non hai riposo, è andata giù compreso. Ma che cazzo ti danno questo riposo che è smontante, si può dire. Per dire smonti l'indomani e ti dà il riposo la mattina, tutto il giorno. E poi la mattina seguente devi rientrare alle 5. E che cazzo di riposo è? Troppe ore. E la cosa che cazzo va? Troppe ore, cosa vuoi? Non fa nulla. Non puoi fare niente. Oggi me l'altro giorno ne hanno preso 3 di guardie. È venuto da me per fargli l'affiancamento, mi ha detto il capozzola di fare l'affiancamento per come si svolge il lavoro. Ma io non ha compreso un cazzo. C'è quella ora, cazzo, cosa so se quella ora? Cazzo, 4 ore e 20 euro, 8 ore, sono 5 per 4, 20, cazzo, 40 euro. Ma te l'ho detto, 40 euro al giorno. Pigliamo fra di camuro, pigliamo 80 euro un maniare, forse di più. Sì, ne prendevo 120 io di cosa, di manovare su. Ma la te l'ha fatto un po'. Ma non ne posso più fare quei lavori di offra, da quando ho avuto questo problema alla schiena, che mi hanno operato, assolutamente posso fare quei lavori. Beh, è grande così. Ma e poi vai con la tua macchina, dico, se devi andare per voi dire a Sentino, i punti sulla Badice, andi con la macchina a dubbia. E allora ho cosato, una macchina rete, non vado mai con macchina. E la benzina te la pagano. Non ti pagano nulla. Non ti pagano nulla. Oh, qui c'è travaglia gratis. Ma infatti non ci vado. Mi adesso fa un po' di stato nel campeggio a Vignola. Prima cosa non ci vado perché non mi conviene. Cazzo, non ti conviene, no, come fa pure i pandai di un mettere in gasolio, forse di più, per 20 euro al giorno vado a lavorare, forse a 10 euro al giorno, perché ci vuole un minimo 30 euro di gasolio andare a tornare. Già lo so, no, ma dormiamo lì, cioè abbiamo l'alloggio, però il mangiare ce lo dobbiamo comprare, ma ci smini. L'anno scorso sono andato, cazzo, ho già giubilato, 600.000 al mese. Cioè più di bagnata di pagare, no, vabbè, no, non l'ho compresa questa, Non mi conviene, io gli ho detto, o mi date vita all'uso, o se no io da notte non mi muovo. Ciao già. Oh, fammi il licenziamento, me ne sta andato. No, così era male, grazie. Ciao, ma prova da uscire, mi sono a casa, no, non si può lavorare a quelle condizioni. Cioè se si è pagato bene, va bene, se no a lavorare così. Oh. Vai già. Buonasera a tutti, dai. Sono entrato adesso, dai, stavo cantando fino adesso. E un po' mi sono sgolato, dai. Un po' mi devo rilassare perché lo stress mi ha portato a avere questo problema al cuore, quindi devo rilassarmi un po'. Beh, va bene, dai. Ho montato quella capo sulla già comunque, quella grande, te la ricordi? È bello, ve l'ho montato. Quella volta la volta intendi. E che micro? Ho modificato il coso, MB+5, +4. Faccio sentire, guarda, aspetta, Che bagaglio. Vabbè, briciola. E allora? Vabbè, già, cazzo scolato ti sei già cantato. E vabbè, ne ho fatto un po'. Tra l'altro ho fatto quella preghiera Non so se ti ricordi di Ettore Angiulio e Ruzzini, quei due ragazzi che lei è morta di leucemia, lui si è buttato dal ponte qua a Sassari. E i cugini di campagna avevano fatto quella canzone, e quando io la canto mi prende un bel. Ma qual è? Ave Maria, no? No, oh, preghiera. Lei mi sorride pensando che poi guarirà. Quella lì. Dice tocca a te, ma cosa mi dici tocca a te? Lo gioca quando mi tocca, ah, ogni volta fa vita. Oggi va bene da vedere come te, 1, 2, 3. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6. È chiarissima, sì, beh. Va bene. Cappa. Cappa, cappa, vai, Antonello è in parcheggio, fai riprendere a lui, dai. Io non sapevo manco che c'era, ciao Antonello. Yeah, ciao Gianni, ben sentito. Cappa. Già sto scendo bene comunque, ha voglia, già vai benissimo. Sì, andava bene, bene, guarda lui. Ehi dai, ne approfitto a staccare, domani mattina me ne do un bisacchito, mi rilevassi un po', mi guardo un po' di telegiornale. Ciao dai, ciao Fra, ciao Gianni, ciao Antonello, ce la ascoltiamo tutta le migliori. Vai Fra. Ehi, va bene, dai, ciao Manuele, buon carico a buon tutto e ce la riascoltare più sui mille. Ciao, ciao Manuele, ci sentiamo, dai, buon trabocco per domani. Avanti, Antonio. Ehi, ciao Manuele, ci sentiamo, buon riposo, buon tutto, a domani. Sta fischiando questa cosa. Adesso va meglio. Non funziona. No, stava fischiando. Non ho capito perché. Adesso già va bene, mi sta detta. È a uno, l'ho messo a uno. Guarda, ti fa rientro con le cuffie. No, non sto usando cuffie, no. C'ho no, vicino a tutto, nel fianco del tempo, tu ce l'ho capito. E quindi adesso va, cioè sta tirando, l'altro giorno mi spariva la radio in questa parica qua, ho aperto e nell'armento non partiva, allora ho preso una spatolina, ho spatolato bene, dopo un po' ho preso e è cominciato a funzionare, ho preso immediatamente a Giuseppe Dudutto, ho potuto smontarla, cazzo, smontarla là sotto e poi ripiazzarla. Attore, prova a mettere l'eco col keyboard. Ecco, non ne ho eco qua, non questa salerta. L'altro sì. Ah, perché pensavo che avessi quello uguale al mio, a me c'aveva anche l'eco. No, ce l'ho l'eco master. Ce l'ho qua. Quello pompa un bel però. Non penso che fischia, aspetta che devo agganciarla, bene. Ma cosa hai fatto? Uno spezzo? Sì, io posso usare qualsiasi microfono in pratica, anche l'M52. Cappaga, sempre bene, sì, attore. Avanti, fra. Sì, ce li ho anch'io, gli spezzoni modificati, se voglio usare anche l'M24 posso utilizzare, capito? Cappaga, bisogna che me lo faccia anche io, così almeno posso usare l'M24 con altri apparecchi. Cap a cap, vabbè, che si dice fra, a pescare. Ah, non ci sto andando oggi, c'è un casino di cosa da fare, via, la carità, devo finire campagna ancora, devo tagliare terra e che è tutta da cresci. Stava fischiando, sembrava un organo che mi ha messo l'accordo. Stavi fischiando, Antonio? Sì, mi ha messo l'accordo, gli strumenti che stava fischiando. Allora Gianni, che si dice? Che magari stava facendo un rientro, è troppo bravo fischiato. Forse è molto più fischiato per 140, tutto quanto vicino, capito? Ma adesso dove trovo il tavolo? segnale di dell'hotel a gratis, ma il segnale è basso, eh. Sì, ma tu non c'avevi anche il coso, c'ha l'Elta, non c'è più il microfono. Sto usando quello, questo è l'Isadelta CM40, invece l'Isadelta che usavo una volta era quello che avevo alimentato direttamente dall'apparecchio stesso, capito, da Kangaroo stesso, quello l'avevo prestato a uno, non me l'ha buttato l'altro, lui già dopo. Aia, per carità. Vabbè, vai già, vabbè, e non è più te l'ho recuperato. No, oh, me l'avevo tagliato con l'uovo, l'avevo preso e basta, poi uno me l'avevo regalato, mi sta letta con l'eco. Beh, io ho messo i cavetti, cavetti staccati, li ho rimessi a posto, no, e l'ho fatto funzionare, è tranquillo. Ma quanti ne hai il microfono da capo? Due? Due più... ne ho un altro che devo sistemarmelo, mi assomiglia a un tanto più tre, che devo avere voglia di perderci un po' di tempo, capito? Devo lanciare una capsula e... fini dell'alimentazione eccetera eccetera e basta e dovrebbe funzionare. Ho capito Antonio, e vabbè, piano piano te lo sistemi. Infatti hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma ti schiano, ma non mi senti così. Fischiando, eh. Adesso non fischia più, mi senti, sì. E ogni tanto va poca roba. Vabbè, dai. Ma c'è da fare qualche problema con il microfono, eh. Ah, non è che c'è problema. Aspetta, che sollevo il martedì. Ok, adesso vabbè. Se però ce l'ho lì, ti strappa, capito? Sempre strappato il che ho avuto con la salenta, perché pompa un bel. Lo so, ma non lo devi, ce lo metti a manetta fischia. Infatti non è manetta, è a uno, figurati, a uno di amplificazione, il marchigliese sulla C. Adesso va bene. Infatti sono 40, e fuscia. Come va? 40 volte già sta, mi sta tirando fuori adesso, già sta andando. Adesso è stata 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, già va bene, lascialo così. Infatti lo sto lasciando così. Già va bene. E già le tempi da fatto. Gianni. Sì, Antonio. Ti pigliate da Gianni, riprenditela. Perché deve essere per le cose? Se stato magari ora l'avevano chiamato. Al telefono, senz'altro. Sì, sicuramente al telefono. Adesso ho bisogno, cazzo. C'era questa rottura di balle nel coso, cazzo. Nel foglio bisogna fare un nuovo perché devono fare devono fare la DCU perché cadere i parametri per avere più bonus, addirittura poi prima se ti mettevi il conto corrente dell'ISA è guai, te la toglievano tutto, invece adesso puoi aprire il conto corrente quello che ti piace, no, allora non gliene frega niente, l'importante è sapere quanto c'hai, hai capito? Questa cosa della cucchia è la solita butta dura dalla Meloni, capito? Ti dà, come si dice, come si chiama, la caramella, poi te la pone in culo. La caramellina. Allora, così fa la Meloni, ti dà la caramella, capito? E poi te la mette dietro. Vedrai, come comincia quando fai il DSU che comincia a metterci il conto corrente con un tanto di soldi, eccetera, eccetera, dopo magari ti tassami, è quello che lo sta facendo. Beh, è per forza, dove io dico, tutti i buoni sono, che politici, tutti di più, E io mi ha appunto più, tanto per dire se ce l'ho dietro, perché mi ha detto quello tutto. E quindi non posso prendere nessun bonus né niente, e non può sapere manco contro corrente, figurati, anche lei. Quello che c'avevo una volta di contro corrente l'ho dovuto chiudere io, e l'unico che ce l'ha è Simone contro corrente, ma è a zero. Breco, breco. Adelante, breco. Avanti, breco. Buona tarde del sud di Andalusia, Cordova, buona tarde al micro, è la stazione primera Alfa Lima della isola di Sardegna Italia, e mandaria 73-51 per a ti e tutto chi è familiare, adelante. Buona tarde compañero, la che te saluda la 30 kilo tango mai 31 de QRA Cristo por aquí de Santa Lucía, Córdoba. Ok, ok, a 100%, ti manderia un hermano che sta conmigo in questa città. A ti Franco. Por aquí a tope, a 10 por aquí, tu señal. Tuo compañero occupi qua a nord di Sardegna, operatore California. Come sta il mio segnale, per favore? A tope por aquí, 9 más 10 por aquí, 9 más 10 por aquí. Ok, ok, al 100%. Santiago 9 arrivo io fra. Allora chiamalo tu a vedere se ti intendi. Bueno, capisco il tuo. Por aquí muy muy fuerte. Yo estoy saliendo por aquí en una gala de Saturno. 5 estrellas y una. Atento, adelante, cupi qua a nord de Sardinia. Non ti sente. Molto strano fra. Sei a monte. Infatti, non mi sente. Attacca il tiro da vedere se ti intendi. Quello già dovrebbe. Dovresti spaccare la testa. Attento, mio hermano, scopi qua a nord di Sardinia, breco, breco. E compagno mi scopi qua dal nord della Sardegna che chiama, breco. E a volte perché si abbassa la propagazione, Antonio, capito? E infatti già si è abbassato adesso, a 3 mi è arrivato. Fare di segnare 9 addirittura. Molto forte. E quando c'è la propagazione sì, però quando scende di propagazione non lo sento più. Venga, a tope sale por aquí, compañero. Ti escucho, adesso la propagazione è muy alta. Santiago 9, radio 5, para ti. Venga, ok, compañero, los dos compañeros que están hablando. Ok, Franco, già ti ascolta l'amico. Sì, compagno, Santiago 59 qua in Sardegna, città di Sassari. E a volte come si sale la propagazione, dopo scende di colpo, capito? È una propagazione un bel strano, eh. Appunto. Uia. Cosa rete, cosa rete? Non vuoi più nessuno di tipo di baracchini, Antonio, non va più a Gandira, per carità. Ciao compagno, 7351 da parte mia, ti riascoltare i prossimi, ciao ciao. Ciao amico, alla prossima, hasta luego. Un saluto per los dos compañeros, ciao ciao, hasta otro. Cosa? E di ex ce ne siete fatti? Ma va di ex, non ricopre nulla io. E non dirà nessuno, no, che credi? Ciao Antonè. Ciao, bello bello, mi hai sentito? Di ex, mi ha chiamato, gli ho risposto. Allora va bene questo qua, allora fra. Ciao Gio Mari, buonasera. E mi è entrato questo spagnolo, stavo giù, mi sentivo, però a volte la propagazione è salita e poi è scesa di colpo. Non l'hai salutato. Che cosa vuoi di più? Ma infatti. Allora, va bene, va. Bene, bene. E allora, tutto bene, sì? Tutto a posto Gio Mari, tutto ok. Tre bien, va bene allora. Ebbene, a te. Allora. Allora. Lo so, non sono uscito per niente oggi, sono uscito ieri, oggi sono a casa e ho acceso l'apparecchio e poi sono andato a modulare, ma non c'era neanche un cane, poi ho fischiato e mi ha risposto Franco. Almeno qualcuno entra la sera. le sere, però ogni tanto va su qualcuno e scappato. Tutto morto, tutti morti sono. Ma la candela a spendere su di queste cose, Gio Marì. Per carità, fra è dubbio. A pensare che a tutti 40 canali erano tutti occupati, la mano per macchinare, ma. Vabbè. I tempi cambiano, dai. Gio Marì, lo so, purtroppo non c'è più nulla. Non andare più la candela, capito? Spendere soldi queste cose sono soldi buttati, secondo me. Vabbè, ma ogni tanto, vedi, ogni tanto ci affacciamo una chiacchieratina, anche se breve, e tira campanello e dove vai? Tanto lo direi io, no che se ne muoio da ballo. Vabbè, quello sì, Vai a te. No, io già, sono tutti i giorni, perché... adesso più che altro mi tocca fare i piatti, lavare in terra eccetera eccetera, capito? E quindi passa l'ora, poi a una certa ora è cominciata a propagarsi, l'avevo visto ieri notte, c'era la Luigino e stavo parlando con cosa, con un amico suo di Irla. Devo chiudere, vi saluto, che è arrivata gente, l'ho dovuto avvisare, dai. Ci sentiamo, buona serata. Ciao già. Ciao già, ci sentiamo, buona serata, a tutto. Faccio fra. Cazzo, ma qua. Da oggi ha cominciato a fare caldo, E tutti erano in giro, con la ruota, no? Ragazzi, ho tutte le finestre aperte qua. La voglia che mi mette a freschetto qua in alto. Ma come? Ma cadde la cosa cacciata? Il braccio tuo e la cicala. Altore. Dimmi. Mi chiamari. Questo. La cosa si trova a candela, è nel braccio tuo, del braccio tuo oppure sulla tua scala. No, è il palazzo mio, è candela. Abita al terzo piano. Abita. A sinistra, capito? Ho visto la moglie ieri affacciata, ma non è messa bene, no? Di salute. Oh, io tanto non lo vedo, prima magari lo vedo molto spesso, adesso è sparito. E faccio, se non è stato a tenere, glielo dico. Comunque già è vivo ancora. Sì, sì, mi fa che lì, tutti e due... c'era la macchina parcheggiata giù nel cortile, c'ha capito, quella familiare, il negozio l'ha chiuso, ho visto, deve essere che in pensione, quindi se ne andano in campagna tutti i giorni, capito, lo sai che c'è la campagna, e quindi vanno lì e poi la volta rientrano. E se ti capita di vero, saluta la parte mia. Io sono bello già, te lo saluto. Ma qua, lo sai, in questo palazzo, ma qualche, ai carabinieri, figura di tu, se... al postino, gli tocca lasciare la baffura, non va però manco morto, né al postino, né a coso, se uno deve fare qualche cosa, ci può anche rimanere secco, tanto non passa manco un cane a controllare, capito? Immaginate che ieri mattina è saltata la voce dell'ascensore, e io sono rimasto dentro quasi mezz'ora, perché capocondo mi si è dimenticato di pagare la bolletta, ragazzi. Vabbè, riprendi fra chiuso. E forse l'avevano chiamato. Io mi sono rimasto dentro, cazzo. E allora ho telefonato a Giovanna, non c'era, e la mia nipote ha sollevato la levetta del contattore, e meno male sono riuscito a scendere a meno due al piano, solo che poi ho fatto la fesseria, gli ho detto adesso saliamo su a casa di lì, gli ho detto ad Alessia, e siamo di nuovo rimasti tra un piano e l'altro. Allora ho chiamato il capocondomio, il centro assistenza, è venuto quello là, è venuto e mi ha giocato a piedi, e ancora l'ascensore non l'ho messo a posto. Vediamo le E poi sto bene, sta andando, Antonio. Sì, che sta andando bene, a voi. Ok. E se senti qualcuno, lo do, Antonio. E senti qualcuno, lo do, gli ho visto la sua più bello. Mi chiedo qualcuno appassionato, se lo vuole. E già ti faccio sapere, al limite. Se insieme un malattino. Si copre la lampenna e così almeno la posta. Già chiedo, te lo dico più bello, te lo prendi. Sì, io ho visto un altro più bello, perché questo lo metti anche tu, poi lo sai, è duro l'apparecchio, per cui non ci sono problemi, no? Per cui, vediamo un po', chi cazzo mai te lo dici, se c'è qualcuno, ok? Sì, va bene, se a casa qualcuno lo vuole, gli ti faccio sapere qualche cosa, che non è problema per quello. Ok, ma a chi sei? Chi c'ha da darmi sulla linea? Va? A chi a caso? Va? Allora, cioè, comunque, sto bene la signorina? Sì, sta meglio, gli è passato. Ma gli è durato un mese, una giggiole, adesso gli è passato, meno male. E quindi si sta riprendendo piano piano. Piano piano. Speriamo tutto bene. D'accordo, so. Bene. Va bene, allora ci sentiamo più tardi nel commento, io chiudo. Ok, ci sentiamo ancora. Va bene, d'accordo, ciao Giovanni, ci sentiamo al limite dopo, no, non c'è problema. Buon proseguimento, buon